Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, una nuova puntata di Italia in controluce, qui con me Marta Cagnola che saluto. Perché? Perché ieri, in questi giorni, Marta è andata a Napoli a vedere qualcosa di importante, cioè una serie, in particolare Gomorra, la serie che è ispirata al romanzo di Roberto Saviano, che Sky sta girando a Napoli e adesso fra poco ci racconterà e soprattutto ci farà sentire anche i protagonisti di questa fiction. Noi vi chiediamo se secondo voi una fiction televisiva, come è stata nel caso tanti casi, da Falcone, da le storie su Riina, soprattutto di mafia, sulla Camorra è stato fatto poco, l'ultima ha avuto dei grossi problemi, quella di Pupetta Maresca, con tanto di diciamo forti discussioni e forti critiche. Ma secondo voi una fiction televisiva può arrivare a smuovere le coscienze, cioè può riuscire anche a sensibilizzare l'opinione pubblica, per esempio in questo caso sulla lotta alle mafie, e ridare, aggiungo io, anche vita ad un luogo che era un luogo di perdizione, che oggi invece è un luogo di grande cultura e di grande resistenza, cioè Scampia, alle porte di Napoli. Marta. Sì, Daniele, lo dicevi, è una grande serie, una delle più attese della prossima stagione, lo dico subito, la vedremo all'inizio del 2014, probabilmente a febbraio del 2014, perché le riprese sono molto lunghe, 3 anni di scrittura alle spalle, 30 settimane di riprese, saranno 12 gli episodi, 3 i registi, Stefano Sollima che è un po' lo showrunner, cioè ha in mano l'intero progetto, che sarà dietro la macchina da presa insieme a Claudio Cupellini e a Francesca Comini. 12 episodi, lo dicevamo, coprodotti da Sky, arriveranno in seguito però anche sulla 7, prodotti insieme a Catleia e Fandango, quindi grande qualità anche cinematografica. Gomorra, quindi Roberto Saviano ha partecipato all'elaborazione del soggetto di serie e collabora anche alla sceneggiatura. Ma intanto come viene girata, cosa vedremo su Sky e in seguito sulla 7? Sul set siamo stati in questi giorni nel napoletano, in particolare a San Vitaliano, ne abbiamo parlato con il regista e appunto showrunner Stefano Sollima. Dovendo raccontare un romanzo complesso come quello di Saviano, abbiamo cercato una formula narrativa che ci consentisse di raccontare noi di nuovo le organizzazioni criminali, in questo caso una famiglia, cercando di raccontarne tutti gli aspetti. E questo ha portato a una struttura un po' complessa, diciamo, che sono 12 episodi in cui noi raccontiamo la storia di una famiglia, quindi di un clan, quindi è una storia abbastanza classica e orizzontale, solo che in ogni episodio verrà raccontato uno degli aspetti della vita, tra virgolette, del clan e uno dei protagonisti, quindi questo porterà ad avere, come dire, una continua variazione all'interno degli episodi del fuoco, quindi del racconto. Un episodio sarà raccontato da parte, non so, dal punto di vista dei killer, e l'altro, il secondo invece, è raccontato dal boss, il terzo dalla moglie del boss e così via. Volevo sapere se entrano in qualche modo le forze dell'ordine in questo racconto. Sì, sullo sfondo, sono quelli che ti rovinano, che arrivano e ti sequestrano il carico, per cui sono da evitare. No, perché visto che tu avevi già avuto il problema di sentirti dire che avevi dipinto i buoni come cattivi e i cattivi come buoni. Ti dico, la trovo in generale una banalizzazione, cioè scegliere un punto di vista è un segno di coerenza, no? Tu scegli di raccontare, e secondo me per raccontare un fenomeno come quello della Camorra devi raccontarlo dal di dentro, e ovviamente seguendo questo punto di vista i poliziotti sono i tuoi antagonisti, per cui tu, per quanto puoi allargare lo sguardo, saresti ipocrita se li mettessi sullo stesso piano, cioè sbaglieresti il racconto, stai sbagliando il racconto. E lì la stessa cosa, romanzo criminale, racconti la storia di dei ragazzini che si vogliono prendere Roma negli anni 70, devi stare dalla parte loro. A che fare con la narrazione non è un punto di vista morale. Allora, 349-238-6666, come sempre cominciano ad arrivare, anche se il tema è, diciamo, un tema abbastanza particolare, cioè la lotta alla mafia, ma va bene. Ve ne leggo due. No, la fiction non serve a nulla e di Saviano non se ne può più. Lidia. Giuseppe, se c'è la garanzia di Saviano sono certo della qualità. Quindi abbiamo centrato il tema, vuol dire cioè che... Poi c'è un ascoltatore, si chiama Corrado, da Como, che mi chiede cosa ne penso. Dice, in un paese dove si legge poco anche la fiction può aiutare a smuovere le coscienze. Secondo me, tu cosa ne pensi? Sì, io penso che naturalmente tutto bisogna rapportarlo alla qualità. Cioè, io penso che quando si realizzano delle produzioni di qualità, infatti Marta poco fa ci ha spiegato che si tratta di produzioni importanti e anche di nomi importanti della fiction. Sì, certo, voglio dire, da una parte qui stiamo parlando poi di 12 episodi, quindi una fiction che andrà avanti anche per molto tempo, credo per molti mesi. E questo può sensibilizzare le coscienze, ma l'arte in generale lo può fare, ma non può fare di più, non è che può risolvere il problema di Scampia, questo è evidente. Meno finzioni, più concretezza, disse Popov, e ci libereremo delle mafie e delle camorre. Ma lo vogliono davvero lo Stato e il popolo? E allora andiamo avanti con il nostro racconto. Daniele, parlavamo di Roberto Saviano, visto che ne parlavano anche i nostri ascoltatori. Saviano, spiegano i realizzatori di Gomorra la serie, ha vigilato affinché il prodotto fosse credibile e soprattutto non si creasse il rischio di avere degli eroi negativi, lo hanno spiegato appunto il regista e gli sceneggiatori. Il personaggio centrale sarà quello di Ciro Di Marzio, un ragazzo che durante il terremoto dell'80 perde i genitori. In orfanotrofio conosce un uomo che diventerà per lui suo padre putativo, ma lo introdurrà al mondo del crimine. Ciro Di Marzio, che è interpretato da Marco D'Amore, rapidamente riuscirà a farsi spazio tanto da diventare un killer, ma, sottolineano gli autori, non si farà, come spesso si teme in questi casi, un'apologia del criminale, perché i destini dei protagonisti saranno tutti tragici. Lo dicevamo, il progetto ha ricevuto in prima battuta le resistenze di alcuni amministratori locali, poi la produzione ha incontrato le associazioni del territorio che ora collaborano alla realizzazione dell'opera. A Napoli abbiamo incontrato Gaetano Di Vaio, nella vita scrittore, attore e produttore, un uomo con un passato difficile, brillantemente superato. Gaetano Di Vaio per Gomorra ha svolto il ruolo di mediazione con le realtà locali e di consulente per il linguaggio. Sentiamo cosa ci ha raccontato. È avvenuto perché inizialmente c'è stata una sorta quasi di rivolta, ribellione di alcuni abitanti della città, di Scampia, associazioni, istituzioni, perché giustamente la ferita della camorra qui la viviamo tutti sulla nostra pelle in maniera forte, però secondo me è come se questa rabbia la si stava indirizzando verso un obiettivo sbagliato. Non poteva essere una fiction, tra l'altro, come prima ho anche detto, scritta in maniera onesta e girata in maniera onesta. Non poteva essere quello il nostro problema, anzi quello per noi può essere un ulteriore strumento per gridare forte, come dire, che la città è ancora sotto le mani e il controllo di della malavita organizzata. E quindi, come dire, giustamente io capisco la gente, il punto era parlare con la gente. Infatti quando abbiamo incontrato, parlato, io sono stato coinvolto dopo l'exploit, diciamo, delle polemiche, quindi ho fatto un lavoro di ricucitura sostanzialmente, perché avevo avuto la fortuna di leggere le 12 episodi e lì mi sono messo un po' a parlare con le persone, ho cercato di far capire, invece pigliamoci questa, viviamola come un'opportunità attraverso questa cosa, anche perché Sky poi parlava di fare delle puntate dopo la fiction, delle inchieste, delle dirette in televisione, con la possibilità di invitare ospiti, dibattiti. Cioè, secondo me può essere un megafono per noi questa cosa, pure perché dopo il primo Gomorra tutto è tornato come prima, la faida è riscoppiata, siamo forse anche peggio del 2004, allora mi sembrava veramente assurdo, pur comprendendone le ragioni, mi sembrava assurdo perdere invece l'opportunità. Comunque sono 13 milioni di euro spesi a Napoli e i giovani possono avere dei rapporti, delle relazioni, delle opportunità da sfruttare, ma da questo Gomorra io credo che usciranno anche dei bravi attori, dei bravi organizzatori, dei bravi ragazzi di set, secondo il mio punto di vista. Grazie Marta che ci hai raccontato un pezzo di storia d'Italia. Ben venga a parlare di uno dei peggiori mali del mondo, dice Serena da Savona. Potrebbe anche scuotere le coscienze, un altro ascoltatore, ma dipende sempre dalla qualità e dalla capacità. Se tenderanno a sceneggiare con la scuola popolare di Un posto al sole, allora ne possiamo fare almeno un altro ascoltatore. Bene, ci risentiamo puntuali alle 13.30 su Radio 24. Un saluto da Daniele Biacchisi.